Ho rotte che fanno fatica a stare a galla e facce da schiaffi che non scorderai mai. Siamo delle simpatiche canaglie che fanno tuffi per vivere in campa. Oggi potrei fare a meno di queste protezioni e del supporto di salvataggio, perché vivo questo giorno, questo grande giorno, come fosse l'ultimo. Fettulati, amami. In roccia, a colpi di capoccia potrei andare senza barcollare. Tuffo a bomba nell'acqua più profonda, 20.000 leghe sotto i mali. Oggi potrei fare a meno di queste protezioni e del supporto di salvataggio, perché vivo questo giorno, questo grande giorno, come fosse l'ultimo. Fettulati, amami. Grazia è lo stato in cui vivo senza traccia di infelicità. Senti, ho già provato tutti i dolori, quindi rido più che si può. Oggi potrei fare a meno di queste protezioni e del supporto di salvataggio, perché vivo questo giorno, questo grande giorno, come fosse l'ultimo. E oggi potrei fare a meno di tutte le finzioni di questa vita da coglioni, perché vivo questo giorno, questo grande giorno, come fosse la vita.